Sì, Signore, grazie, perché noi siamo liberi in Te. Padre, grazie perché hai mandato il Tuo figliuolo a morire per noi, affinché noi potessimo essere liberi, Signore. Liberi dal peccato, liberi dalla morte. Padre, liberi di guardare Te, di servire Te, di onorare Te, Signore. Grazie per questo miracolo. Grazie per questo miracolo che hai fatto per ognuno di noi. E noi Te ne saremo eternamente grati, Signore. Padre, aiutaci ad essere grati per questo, a Te. Nel Tuo nome santo, Signore. Amen. Amen, Chiesa. Sei grato? Sei grato di essere libero? Allora, ci sono una decina di noi che lo sono. Per il resto di noi, siamo grati. Amen. Amen. Siamo grati, siamo pronti a dare. Siamo pronti a dare, siamo venuti per dare. Ed è una cosa meravigliosa. Non so se magari sei qui per la prima volta in mezzo a noi. È una domenica speciale dove noi abbiamo messo da parte per dare. Ed è una cosa che noi facciamo ogni anno perché sappiamo che il Signore ci chiama a fare questo, a dare a Lui che ha dato ogni cosa per noi. Ora vedo che alcuni di voi si stanno sedendo. Vi siete stancati? E accomodatevi, dai, accomodatevi tutti. Prego, prego, questa è una domenica, no, dove vi abbiamo fatto rimanere più in piedi del solito, vero? Però fate una cosa, mentre vi siete già accomodati, guardate l'uno all'altro, dite grazie che sei venuto, grazie perché sei qui, per la prima volta, per la centesima volta, grazie perché ci sei. Perché questa era la domenica del dono perché amo, come dicevo, è una domenica speciale dove noi ci diciamo vogliamo dare in maniera speciale. E qualcuno poteva pensare, beh, questa è la domenica buona per non venirci, giusto? No, dai, no, non siamo così. Noi siamo stati trasformati dal suo sangue, per questo non viviamo le cose così. Però, proprio perché sei in caso, sei venuto qui per la prima volta, o ti è sfuggito questo mese dove noi ci siamo concentrati, abbiamo concentrato il nostro cuore a dare, proprio per vivere questo momento come io credo il Signore ci chiama a viverlo, voglio leggervi alcuni versetti. Siete pronti? Ora, ho chiesto espressamente questa domenica mattina che non fossero proiettati, proprio per concentrarci di più. Vediamo se funziona, magari non funziona. Però, proprio per concentrarci di più, magari cerchiamoli, sono in Colossesi 1, dal versetto 15. Se avete la Bibbia cartacea, meglio ancora, leggiamoli insieme. Questa deve essere la motivazione per la quale facciamo ogni cosa, ed è la motivazione per la quale noi facciamo ogni cosa in questa casa, in questa famiglia, in questa chiesa. Questa è la motivazione, quindi ascoltate attentamente. Sono alcuni versetti che leggerò, leggiamoli insieme, dal 13 a dire il vero, fino al 20. Ci siamo? C'è questo silenzio solenne, mi piace, buono, ok, concentriamoci, leggiamo insieme. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportato, ci ha portati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le invisibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e per Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono, esistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nel cielo. Questo, fratelli e sorelle, è il motivo, amici e amici, per le quali noi facciamo tutto quello che facciamo. Perché? Perché noi eravamo nelle tenebre, noi eravamo nella morte e nel peccato, e grazie a Lui, è quello che abbiamo letto nei primi due versetti, è grazie a Lui che siamo stati trasportati, portati, strappati via dalle tenebre e messi nel regno del suo Figlio. E chi è questo glorioso Figlio? Chi è questo glorioso Re che noi abbiamo? L'abbiamo letto, è l'immagine di Dio, è il primogenito, è quello che ha creato tutte le cose, le invisibili e le invisibili, troni, signorie, principati, podestà, tutte le cose sono state create da Lui e per mezzo di Lui. Lui ha reso possibile ogni cosa. Lui, abbiamo letto, è il capo della Chiesa, l'abbiamo sentito più volte questo mese. Lui è il nostro capo, per Lui facciamo ogni cosa, perché è per mezzo di Lui che ogni cosa è. Amen. Tutte le cose sono per Lui e in vista di Lui. Questo è il nostro amato Re e Signore, è primogenito dai morti. Questa frase è un po' ambigua, primogenito dai morti, è quello che è nato per prima di tutti, da cosa? Dai morti. Che cosa significa questo? Che Lui è morto, lo sappiamo benissimo, e Lui è risorto, è stato il primo a risorgere dalla morte. E perché Lui è il primogenito dalla morte, perché Lui è il primo ad essere stato risorto dalla morte, noi sappiamo, perché Lui è il primogenito. Se c'è un primogenito vuol dire che c'è anche un secondo, un terzo, un quarto, e un millesimo e un milionesimo. Perché Lui è risorto, io posso risorgere in novità di vita, perché Lui ha dato tutto se stesso, io avrò vita eterna, libertà dalle tenebre, affinché Lui abbia primato in ogni cosa. Fratelli e sorelle, questo è il motivo per il quale facciamo tutto quello che facciamo, ed è il motivo principale per il quale questa mattina noi diciamo: Signore, vogliamo dare a Te ogni cosa, anche i nostri soldi, in maniera speciale per quello che Hai per noi per quest'anno davanti, affinché sempre più persone possano essere strappate dalle tenebre e incluse nel regno meraviglioso del Tuo Figlio. Per questo noi vogliamo dare, affinché Tu possa avere primato nella nostra città, nella nostra provincia, nella nostra regione e nel nostro mondo, affinché Tu possa avere il primato, affinché Tu possa essere il primo in ogni cosa, anche nelle nostre finanze, anche in quello che ci appartiene. Vedete, stamattina è una confessione di fede che facciamo, e non so come sei venuto preparato a dare o meno, però puoi prendere questi attimi per preparare il tuo cuore e dire: sì Signore, io voglio dare in questa maniera, io voglio dare in maniera che Tu possa prendere il primo posto nella mia vita. Questa è la confessione di fede che facciamo questa mattina, e dire: Signore, Tu il primo, Signore, Tu il primo in ogni cosa, io do affinché Tu possa essere primo, non solo nella chiesa, nella provincia, come ho detto, ma nella mia vita, affinché nient'altro possa prendere il posto che spetta a Te, affinché Tu possa avere il primato. Amen. Siamo pronti a dare, siamo pronti a festeggiare insieme che Lui è il nostro glorioso Re, l'immagine invisibile di Dio, colui che era prima e ha creato ogni cosa. Allora ci alziamo in piedi e vogliamo prepararci a dare in maniera gioiosa, in maniera di lode e adorazione a questo Dio. Io prego che possiamo venire davanti con i nostri doni, insieme, come famiglia, da soli, lodando il nostro Dio. Io prego che possiamo scendere dai nostri corridoi per venire qui davanti, dove ci saranno due cestini, sì, sono già sulle scale, dove possiamo mettere la nostra offerta in questi contenitori, e che il nostro cuore possa dire in noi stessi: io farò così, ve lo dico, Signore tu primo, Signore tu primo, Signore tu primo, Signore tu primo nella mia vita, Signore tu primo nella nostra chiesa, Signore tu primo nella nostra regione, Signore tu primo nella nostra città, Signore tu primo nella nostra nazione, Signore tu primo nel nostro mondo, Signore tu primo, Signore tu primo, Signore tu primo. E questo è quello che significa: affinché lui possa avere il primato sopra ogni cosa. Amen, chiesa? Amen? Amen? Affinché lui possa avere il primato su ogni cosa. Se questa mattina non sei pronto a dare, se questa mattina sei la prima volta in mezzo a noi e non sai quello che sta accadendo, io prego affinché tu in questo momento possa chiudere i tuoi occhi e rivolgere questa preghiera, anche se non hai mai pregato prima, fino ad oggi, e dire: Signore, io voglio che tu sii primo nella mia vita. E questo è il dono più meraviglioso che tu possa fare a Dio, e donare il tuo cuore. Siamo pronti a donare? Io lo sono. Allora facciamolo insieme, mentre ci sarà un altro canto che canteremo insieme. Lodiamo il Signore, acclamiamolo per quello che è, e diciamo: Signore, tu primo, Signore, tu primo, Signore, tu primo. Diamo insieme.